tua, peggiorai un po' di capo, che Pompucci, Pompucci. 27 metri sono. Cosa, Antonè? 27 metri. Già, va bene, mi basta, ma butto, tu sono 24, 25 metri, 27 metri, è troppo. E beh, dimmi, chi non ride? Centesimi, ti va bene? Non ho capito, Antonè. 80 centesimi. Allora. Ok, totale. E poi vediamo che faccio i conti. Cazzo adesso, aspetta. 21,60. C'è fatto, vai. Ecco con la tua autrice. Ok, Antonè, dai. Un quarto d'ora, massimo 20 minuti sono da te. E intanto devo riavvolgere, aspetta. Cazzo, sto da manivella, cioè, aspetta. Vabbè. Ok, vabbè, tanto io mi devo ancora a casa. Devo, sarò in casa, dopo prendere la macchina e poi salire da te. Devo cambiare il tutti che sono sui da 50, capito? Ok, dai. 20 minuti e mezz'ora massimo adesso da te, ok? Aspetta. Murgio, piano piano, con calma. Ok, c'è quello Regi 58, sì? No, Antonè. Se è nero, secondo te è grosso, molti ne conosci. Penso di no. No, niente. Io c'ho quello grigio, ma è troppo al corso. Ok, dai, una mezz'oretta sotto a te. Che ne sono? Le 6 e mezza, le 7 sotto a te. Ciao. Ciao, ciao. Eccomi, sono qua, scusate, ma era una cosa un po' lunghetta. Va bene, aspetta che devo riavvolgere quel capo. 2 minuti, Nicottino. Adesso è staccato? È staccato adesso, so. Si staccherò, vai su. Lo so. Aspetta che riavvolgo il capo un attimo. Ok, questo è il primo passaggio con il 950, uno dei tre propri tecniche di modulazione. Siamo a circa 30 cm di distanza dal mic. Adesso mi dà un attimino di bianco, cambio solo radio. Il microfono tengo sempre lo stesso. Ci sei? Bene. Questa è la seconda radio, sempre con l'MC60. Vediamo un pochino se è cambiata la lavorazione. Se vuoi faccio anche una quarta prova, senza cambiare, cambio solo il microfono, aspetta. Eccolo qua, questo è l'altro microfono, il G5, mi ha copiato con il ok, adesso faccio sentire anche questo perché non l'ho mai sentito, ma ho detto che è molto alto di modulazione. Ok, grazie. Aspetta, mi ha già arrivato un messaggio, sì. Aspetta che mi ascolto, va. Allora, come modulazione tra il 60, credimi, è un orecchio mio, tra il 60 e il G5 c'è poca differenza, sì, il ragionamento devo abbassare l'amplificazione del microfono, perché è troppo amplificata, anzi, faccio un rimetto e mi dici quanto devo abbassare, perché vediamo, sì, proprio basso. Guarda così capisce, va meglio, 9-3 prova. Vediamo un pochino, ho abbassato ancora, 1-2-3 prova di modulazione, ora. Tieni presente che si assomiglia molto, perché tra il G5 e il 60 insomma sono proprio molto fedele. No, adesso ho la 40, 50 cm. Tieni presente che l'ho aumentato, solo l'amplificazione. No, sto usando il P5, ora mi sono avvicinato un pochino, sto moverando un pochino la modulazione e l'amplificazione del microfono ce l'ho a metà. Sì, ho già notato. Guarda, adesso ti faccio questo passaggio qua e cambio solo il microfono, mantengo la stessa tonalità di voce e la stessa distanza. Magari. Non lo posso abbinare perché l'entrata è differente, mi dà un cavetto, quindi non c'è problema, ma adesso sto usando il 60, sì, è il suo, infatti questo qua lo voglio fare bene così, no, io invece voglio fare il suo, l'MD100, però bisogna fare sempre riparare, tirare, vedere un pochino, vediamo, io però devo fare il cambio di cruise, non connettore praticamente. No, tieni presente che a mappa io utilizzo la saponetta, perché spinge di più, va bene, è più comprensibile la cosa, al contrario dell'amplificato. Sì, stavo guardando, allora io attacco, attacco della radio, e questo è il connettore del fianco, non ce l'ho fianco di ASU, o perlomeno, ce l'ho, ma ci vuole, che faccio a fare qua, no? Ci vuole, ci sarebbe voluto un maledotto, per poter capire. No, non è roba mia, capito? Adesso me l'hanno prestato, giusto così, a prova, vediamo un po'. Adesso vediamo se riesco a... Vediamo, ne parliamo, va. Sì, volevo sentirlo. Vai. Ah, ok, aspetta. Non so cosa dirti, io guardi il ricorrente, no, che tantino. Perché questa è l'antenna grande, non è che... Vediamo, quindi la cosa posso fare qua. Voglio provare l'altra, se riesco a entrarci. Allora, grazie. Ti chiamo l'altro, aspetta. Aspetta, non riesco a ascoltarti. Questo è il livello corrente. Ma questo adesso è più basso, io, vero? Quanto? E invece con questo che ti chiamo adesso, guarda. Ora 1, 2, 3. Poi non ti ascolto. Ma è strano, perché caspita. Una è una direttiva, anche se ti ascolto col culo dell'antenna, l'altra invece d'accordo qua. Bene, ora vediamo un attimino se provo a mandare un messaggio a Antonello, se così hai un controllante tu. Ti faccio uno squillo, a voglio sì. Sì, sta entrando tra un po', dai. Sto facendo un rumore. Nuovo 35, invece così, modulati, là, ti dovrei passare. Tu pensa, portante bianca, 20, no, 30 watt quasi. Modulati sono 80, 90, a picchi di 100 forse, cose forse. Sempre non quello è 60. No, poi sì, 9.20 spazzato, 9.20 spazzato. Mattini è presente che dal tempo, da colpo cambia, cambia molto. Se vuoi ti do l'altro controllo. Vabbè, dimmi quando sei pronto. Da mio figlio. Ok, ho capito, ho capito, un po' più basso perché effettivamente questo spinge un pochino di più, ciucuccio, eccolo qua, non controlla quello invece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attaccato, sì. Quasi la lancetta passa, dunque, 8 più 5, altri 5 arrivare a 1. Con che valvola sta andando? 3.900 sto uscendo. E adesso vado un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ancora, sto guardando meglio prima, ma sì, un po' in, anche un po' in saturazione. Non so cosa è combinato, nel senso che ho ritirato troppo ingresso o non ho accordato bene. Aspetta. Vediamo un po'. discesa solo, quindi già sta cominciando a chiarirsi qua. Le media parametro nelle segnali negative adesso, quindi vuol dire che l'audio sta andando, quindi non di molto, ma ci sono appena appena negativi. Devi contare che sto usando il 2009, non sto usando un altro apparecchio, capito? Via, ma stasera quando l'ho provato era quasi mezz'ora acceso, hai capito, senza stare a parlare. Quando ho chiamato a Tino, stavo uscendo benissimo stasera, perfetto, la radio era 5, non mi ha detto niente Tino, non avevo neanche un po' di saturazione, figurati, quindi devo far scaldare il valvole, il discorso è quello, hai capito, qui il fatto che c'è pulsante dello stand-by che è inciudato, quindi lunedì lo compro, glielo cambio così almeno può lavorare bene questo linea, se no è un casino così, capito? No, magari ci vorrà un po' di pulizia per contatti, se blocca, non riesce ad uscire proprio qua. Ascolta, sì, la radio Malovina, troppo ingresso di serato. Comunque stasera così, era perfetta la radio, non saturava niente, era forte, era il segnale forte. Adesso a me, non sto arrivando con questo segnale tuo, però se cambio radio arrivano le 40. Aspetta un attimino così, tieni presente che io con quel amplificatore lì ho cambiato varie radio, quindi sono riuscito a trovare il giusto compromesso con quella radio che utilizzo io, che praticamente è la TR-125 che è tipo il flusso praticamente, e ha fatto una modifica nei VAT. Quindi di nuovo il fatto che voglio io, magari 4, 5, 10, in base, quindi magari più sono io il corpo di ascoltare la radio. Io solitamente ne metto con 10 watt di entrata, lo trovo benissimo, mi portava a tutti i watt dell'amplificatore. A quanto ho capito io, Antonello, non li può passare il watt del baracchino, capito? Prova Antonello. Prova, se no posso subito abbassare il watt, se no. Prova di nuovo, stasera sto riuscendo bene. No, non posso abbassarlo infatti, se mi tocca smontare tutto l'apparecchio, capito? Togliere gli eventi, eccetera, eccetera, no? L'ho attaccato proprio per usare il keyboard, capito? Solo volevo l'intenzione mia era usare il keyboard, solo il keyboard, quando modulavo, mi dava i picchi, per dire se mettevo 2 watt, se saliva anche 5, 6, 10 watt, e quindi non ho voluto rischiare di usare il lineare, capito? Insomma, avevo usato il keyboard, il corso 80 tranquillamente mi potevo regolare, comunque con questo 140 spingi un bel di radio, capito? Ma io mi sono immaginato che tu non potevi abbassare il VAT. Va bene, va bene. Comunque pian piano sta migliorando, piano piano, ancora non sarei al 50% ancora. E una volta che sono caldo nel babbo che come stasera che potevo cucinarci le uova fritte, sta tranquillo, già si stabilizza da solo, me la accorgo dal mini amperometro, ho capito. Questo lavoro me lo fa anche con lo speed della CTE, una volta che scaldava era un treno, capito? Comunque infatti già installato, sta operando bene, le valvole sono abbastanza perfette, non c'è neanche una viola, quindi sta lavorando bene. Quanto fa che cosa? Fatto il miliamperio, mi sta segnando lo strumento qua. Ma dottore, gira un pochino di più, quello è vero, sta assorbendo. Comunque le luci all'endo visto che non si abbassano, quindi sono a posto. Sta sforzando, fatelo, perché tanto è troppo ingresso. Magari lui non è pronto ancora, dimezzando 15 watt, capito? No, adesso si è migliorato un pochettino, 2, 3, 4, 5, 6. Va meglio adesso. Adesso guarda un po', 1, 2, 3. Aspetta. standard, soprattutto da volontario. Sto cercando di codare. Ecco, mi ripresi dorsale. Ah, volevo sapere se mi sentivi. So bambo vai, mi vuoi. Che mi piace fare. Ma tu fai qua, Antonello è molto più indietro di me, quindi lui ci potrà farci superarti, ma anche lui ti sta spingendo, perché purtroppo non ha radio, solo che non me l'avete sentito. Lo so, io sono in pianura qua. Ehi, sto liscio adesso, mi guarda. Ho staccato, quindi vedi come esce questa radio qui. Molto più chiara del 140. Non si è mai avventato nessuno con 140 strano. Pensi che sei avventato anche tu. Ma sai che 140 mi ha polpato bene il radio. Purtroppo è fatto così. Quindi non ci posso fare niente. Anzi, l'ho sempre messo sulla C addirittura. Poi la potenza, vabbè, la potenza era sempre 50. Capito? Adesso per dire, ancora le 9:10 qua. Vabbè, ma vuole pilotato diversamente. Io quando ce l'ho io l'incremento l'ho visto. Vabbè, io sono così, non è che non ho toccato niente. Classe 960. Oltre 960 non ti posso fare la comparazione perché non vanno, la radio non legge di più. Però adesso che lui a Sassari è 9:10, ascolta questa cosa, adesso a Sassari lui è 9:10 e da me arriva 9:30, sono 20 dB con un'alimentazione che gli sta dando lui, non so niente. Vabbè, magari non è, ti ripeto, non è pilotato come dovrebbe essere pilotato. Sì, infatti, ma sto dicendo quello. Secondo me, secondo me è proprio la radio, che non sta spingendo quella di Antonello, oppure è troppo alta d'ingresso e lo fa andare in saturazione. Sono due le cose. Ma infatti è così, io ti ho detto, solo che stamattina, quando ci siamo sentiti con Antonello, o perché ce l'aveva molto alba, molto acceso, quando ho parlato, la modulazione era molto più forte e chiara, e il segnale c'era, capite? Non lo so, vabbè, forse perché l'ha appena acceso, non lo so. Che microfono cosa hanno, Antonello? Antonio, ma tu puoi fare anche una prova con me, tanto metti il cable del fregato, non fai niente alla cosa, lo metti a 5 watt, ma che siano a 5, perché poi modulati, anche 2 watt lo puoi mettere, poi modulati te ne vai a 10, quindi li sopporta bene, se lo metti a 2 watt va bene. Beh, dove voglio bruciare il cable, dove vai? Adesso con Dora attaccato. Ma mi si passava questa storia qua, e secondo me sai invece cos'è? Ti ricordo stamattina quando mi ha fatto quel difetto che il terremoto una volta, sto pensando che c'è il cavo lì dietro, magari che sta rompendo le balle, hai capito, dove ha lanciato il PL, magari è quello il problema, domani lo voglio controllare col test, bene, magari c'è qualche filuzzo e cosa del genere, capito? Adesso sono attaccato. Cambiato qualcosa? Antonio, è sempre un po' di alternata, e la modulazione non è al 100%, ma ti ho spento, domani te lo controllo con calma. Antonio. Adesso faccio così, te lo spento. Perché li fai danno a 140? Perché prima di tutto spinge di audio questo barattino, quel 140, quindi non riesco a regolarmi, capito? E se mi dovesse succedere che mi ritorno le vado indietro del lineare, se devo buttare i fieri che vuoto, non me la sento per niente, capito? Già l'ho pagato 300 euro e non lo voglio per una cazzata di bruciarmelo, capito? È già successo con un baracchino presente, una cosa del genere, e avevo cominciato a lineare, gli mancava una vita e cosa del genere, mi ha fatto niente, è rimasto da lì incollato, ciao, dopo 30 secondi, bruciate il finale del presidente, era dovuto buttarci una mondezza, non le valeva neanche la pena ripararlo, quindi non voglio, al limite attacco il tempo così com'è, adesso è uso il Kenwood, con il microfono amplificato e faccio prima. Aspetta, perché adesso tu stai usando un microfono dinamico, non è amplificato il microfono che sto usando adesso? È amplificato, è salenta, quello che uso con il Kenwood, capito? Ho capito. Quel microfono per questa radio non va bene allora, Antonio, lo sai. Non sta spingendo, il problema è che non sta spingendo il microfono, Antonio. Allora, sì che c'è la batteria del Sabel. Aspetta un attimino che dopo sarà feo come tenitore, ma comunque. Aspetta che attacco il ZG, il microfono, aspetta un secondo. Ma non hai altri microfoni, fanno male un tecnico come te, non ha microfoni. Allora, uno me l'ha dato a me, vabbè, però quando vengo te ne porto due. Il microfono da quello ce l'ho regalato a Giovanna, ne ho comprato 6 di quelli, il primo l'ho pagato 50, il secondo 60 e il terzo 70 euro, l'MB4, figurati tu. Secondo me il microfono che non sta facendo andare la radio. Niente di strano, può essere anche la batteria. Secondo me può essere anche il tempo nell'onda. È sicuro, guarda per adesso con questo cosa è cambiato. Prova, fa un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Attacca lineare adesso. Ma devi farmelo scaldare. Aspetta, dammi 3-4 minuti, se no lo crepo il coso. Fallo scaldare. Accendilo. Se forse con questo microfono spinge un pochino di più. Sì, capito, non ha spinto il microfono. Io sono ora glielo sto chiedendo, che microfono sto usando, non mi rispondi. L'ho chiesto 3 volte, non mi ha ripuscio. E il microfono non sta andando, il microfono era una muoia, cioè gliel'ho detto, non c'hai amplificazione, non c'hai radio, hai segnale in cantoni voi, ma non c'è radio, quindi è inutile che hai il segnale, è la radio quello che è. L'M95 questo, ed è la Delta G, quello palmare, guarda un po'. Guarda a vedere se ha cambiato. A cambio, sentato che avevo la batteria scarica in questa delta, su che come cosa quel cazzo di microfono, io lo sai. Questo è l'M95. Attacca però. Cazzo di asso. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, è migliorato il radio, però è sempre una gira alternata, non so da cosa possa dipendere, forse l'alimentazione dell'apparato. Massa a terra, fuori della massa a terra, mettigli un cavetto dietro, Antone, di supporto, poi attaccalo una ringhiera, una maniglia. Sai cosa ho fatto? Il diavolo vuole mettermi la parabola, ha portato la mantova, e ti picci. Adesso meglio va, quindi la radio è più forte. È abbastanza, hai migliorato, prima eri al 10%, adesso sei al 70%, puoi migliorare ancora, però fai scaldare l'apparato prima. Non vedi, è da poco fa ti sto dicendo, non è amplificazione. Pigliatele una decina di batterie, caspita. Eia, c'ha... Dove vabbè c'è una battina nuova cosa, non vedo dove ce l'ho messa. Nuovo. Ho dato quando dai due spine e piglio una. Comunque adesso va meglio, sta andando e migliorando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, va bene, guarda, il segnale è lo stesso di prima, però la radio è cambiata tantissimo, e sono sicuro che tu anche in quel microfono hai la batteria scarica anche in quel microfono, ne sono sicuro, vabbè, già ci metto, non è il fuoco. Guarda, io vabbè, non voglio essere, però se mi metti un bel microfono amplificato, come ho trovato la comparazione io tra microfono, radio e amplificatore, vedrai che quei problemi li risolvi. Sì, ci vuole un microfono, basta anche un tanner buono, e poi vedi come spingo l'apparato, quell'amplificatore. E caspita, non... senza radio non ti mi venuta, lo sai meglio di me. Ci vuole, il segnale non conta, conta fin dove arrivo la radio, però aspetta, quando hai un segnale del genere e vai in radio, fai in capo al mondo, adesso poco fa c'era, adesso poco fa era uno schifo. Va bene, poi dico il controllo domani, Antonio, cioè che magari nel salvare effettivamente c'è qualche filetto, perché c'è l'alternata di sotto. Vabbè, domani già lo guardo meglio, non è quello che mi preoccupa. Il tuo bip mi entusiasma, non come? Sono più di volte che faccio questo bip. Adesso, te la bidi in cui ti dice, guarda. Non c'è andare, no? Cesso Maria, Gianni Boni poco di bip. Ma te l'hai fatta tu quella scheda? Che un giorno questa scheda è stata in questo palazzino, ne ho anche un'altra, ne ho conservata, figurati. Questo è della Inter che addirittura l'avevo pensato verso 80, te lo ricordi? Ehi, Oia, tu per i bip sei number one. Io ho una scheda forte armata e se la vuoi i bip. Adesso sai cosa mi devo comprare? Un mixer e così entro con l'eco, faccio la voce da donna, col Kenwood. Non funziona, Antone, non funziona col mixer così. Ti rientra tutto, già cose già provate, mi abbiamo provato anche l'altro giorno Contino e non è un mixer da 50 euro. Purtroppo devi trovare un mixer che abbia l'ingresso con i bit uguale all'ingresso del Kenwood. E non ce n'è, perché va in modulazione, senti ti ha quell'effetto alternata, che non è alternata, ma è solo il programma del mixer che non va bene con queste radio qua. Io ho avuto un mixer, ma non mixer, ho avuto un effetto eco, se te lo ricordi, i primi eco che sono stati costruiti, erano quelli con l'altro senza fine, eravamo regalati a Roberto Bandito, quello sì che era un bel effetto eco, era una cosa allucinante, ti veniva con la modulazione chiara, amplificata, c'erano due ingressi, due uscite, ma era veramente bello per discoteca. Sì, io l'avevo preso da internet, da un tipo, avevo fatto spedire il bip forte armato, quello che si mette che mettevano il 48. Mi arriva il bip e mi si rompe la radio, quindi lo vendo, adesso quel bip lo vendo, è bello, è proprio selettiva. Antonio, ma perché ti serve un eco? No, ecco no, non me ne serve. Ho detto, il giorno che mi metti, che c'è un po' di soldi, mi compro un mix, così faccio anche la voce da donna, ho detto. Capito, non è che mi serve l'eco, il cazzo eco non l'ho usato, ho usato il Dive, ho usato ZG, ho usato di eco. capito? Ce l'avevo anche nel quello di 4.000, già lo sai che l'avevo modificato. Forse essere effetto del barbaro, come dicevano, ma avevo fatto più lento. Era di lusso, ripetevo una volta sola, sembrava un piazza Castello. No, io ne ho uno, non so se della Daiwa, devo cercarlo, però ce l'ho, mi ricordo di averlo, c'è una 48. Va bene a modificarlo, ma bisogna cambiare potenziamento di dietro, metterci quello a 220 ohm, e ti fa, ecco, lento lento ti fa. Quando parli sembra che sei dentro la chiesa, mi hai capito? Sì, ma sinceramente parlando, a me sia eco che bip non mi danno tanto entusiasmo. Già lo so, no, io già ce l'ho questa la scheda qua, l'avevo messa antifutto per esattezza, ne avevo piazzato 15 di questi bip, gli anni che furono, una volta avevo rubato il barattino a andava lì come Riussi e gli avevo messo due GBP patottoni, prende questo, entra e gli ho detto ah cazzo che bel BIP che c'ha, quando l'ho comprato la parete, l'ho comprato due giorni fa, mi ha detto, guarda, mi interesserebbe, lo sto vendendo, e questo mi fa sì, ci abbiamo dato l'appuntamento e ci siamo pigliato tutto a calci in culo a quello, e poi ci ha fatto distruggere quel bici, quello era parecchio, mi ha rubato, adesso mi paghi il letto della macchina, l'ha detto, se non ti mandi in ospedale. No, comunque allora capì, volevo, non so se si può fare, ma credo di sì, i componenti del più 5 trasferirli nella mia più 100 per dargli più amplificazione. Molti. Ma non credo, caspita, no, guarda, te lo do il microfono, ma non buttare quel, non rovinare quegli ai sumiti. Ma quel microfono già ne ho, era per avere la linea, però, Antonè, cambiando la capsula cambia la cosa. Sì, se ricambi la capsula sì, cambia totalmente la tutto. Se la azzecchi la capsula giusta esce un demonio, il microfono amplificato, lo sai anche tu. Ma lui sacca tutto che stai saturando, cioè stai saturando, sta andando in alternata. Staccato, adesso sono senza niente. Stavo pensando di... Ah, ma c'è una modifica, Maria Gesù, nell'MD100 c'è una modifica da fare con un carretto, un ponte, se non mi sbaglio, l'avevo già visto anche su internet, non so se aumenta l'amplificazione o meno. Adesso non la guardo. Guarda, è sotto, c'è un... quando vai qui sotto devi fare un ponte e basta, ma non so cosa, si aumenta molto di amplificazione, tra l'altro più facile fare anche. Aspetta, guardo. Sì, Antonè, si va di alternata, forse la scaldava troppo, sta toccando qualcosa. Ah, c'ho il cavo di G213 che intanto come sta scaldando, ho capito, in uscita, mi sto accorgendo che cala di ricezione, basta che lo tocco appena si rimette di nuovo a posto, quindi domani vi faccio la salvatura del PL. Siccome sono quei PL a telefono diffusare, hai capito? Ho capito. Va bene. Aspetta che attacco il microfono Duracell, c'è il microfono Duracell, l'intelligenza deve la batteria Duracell, cosa? Alza la vediamo se questa è carica, aspetta. Ma guarda che questo microfono va bene quello che stai usando, eh? Lo so, ma devi capire cazzo come sono messo qui nella cameretta, cioè che ho avuto messo nelle mobile, poi ho avuto spostare il tavolo, avvicinarlo all'automobile, perché se no il cavetto non ci arrivava, capito? Aspetta un secondo. Tino, ti migliora l'amplificazione, migliora l'amplificazione e la modulazione, ce l'ho qua davanti. È un punticello che bisogna fare, basta. Ce l'ho detto io, no? Sì, l'avevo visto, però non mi sono messo lì a manovrare. A parte che dovevo anche cercare, perché non mi ricordo qual era il ponte da fare, però è stato fatto da un radioamatore e a quanto abbiamo detto ha migliorato molto l'amplificazione anche in banda. Ascolta, ma il tuo è l'MD100 o l'MD100 normale o il 100 a 8X? Ti mando la foto. Sembra così, però io guarda, mi trovo benissimo con l'ICOM per MC80. No, guarda, tutti quelli che l'hanno sentito anche in propagazione mi hanno detto che è bellissimo, che a questa ora della notte mi hanno detto che è bellissimo. Ho trovato la copiata, io non c'è niente da fare, c'è da vedere. MD100 normale, sì, MD100 normale. Sì, perché se va bene con quella modifica lì non c'è bisogno neanche di farli. Devo passare a prendere quello là che mi ha detto che è fatto. Piglialo che un 60 in più non è male. Sì, no, ma poi era già in lista. Yes. Va bene. Sai che sto lavorando fino a tardi, rientro tardi, non ho tempo neanche per me. Adesso oggi non ho fatto niente, anzi per dirti niente, mi sono cambiate le luci della macchina e poi ho fatto le luci come si chiama? Di cortesia, dai, quelle del camper sopra, che dovevano essere cambiate. Tra una cosa e l'altra, a mezzogiorno non ho fatto altro. Ma adesso è aumentato di amplificazione adesso, ho cambiato la batteria. Ciccio. Poi ho provato un impiantino, perché era un po' fermo. Le radio l'ho accese dopo cena. Ho capito. No, perché avevo cose da fare, ti ricordi che ti avevo detto volevo farmi una panzetta là? Ma adesso come a iniziarla. Sì, ma se sta lavorando poi il sabato mai va a fare anche qualche cosa in più, è così. Adesso io sono più libero a questo periodo, e poi da lunedì dobbiamo fare un lavoro da autobus, dobbiamo iniziare, quindi entrerò alle 5 la mattina perché dobbiamo fare alle 5 a mezzogiorno, perché poi sono i pranzi e non puoi più fare niente. Quindi entriamo alle 5 e finiamo a mezzogiorno. Stiamo mettendo i pannelli di bugnato nel tetto. Oh, guarda, si è aumentata l'amplificazione adesso. Sembra una signorina, Antone. Sì, modulazione molto fina. Adesso sta funzionando anche il beat. È la batteria mezzo scarica del Savelta. Adesso è un po' parecchio. È più presente. Questo? Sì. Questo è il tunnel, Sì. È andato, Ho cambiato batteria. Adesso dovrebbe essere meglio. Te l'ho detto, sembra una signorina ora. Il rossetto dove te l'hai messo? Deve sapere, perché ci stavo giusto. No, Antonio, veramente, non ha cambiato proprio nulla. Adesso comunque deve sta funzionando, quindi cosa vuoi che dica? Col 2009 non pompa nulla, se l'attacco è che vuole avesse cambia. Non lo so. Come mi copi con questo microfono tu a me di lì, Antonio? Ti sento bene, a voglia, ci mancherebbe. Questo è il tunnel, mi ha copiato a 450. Ci va bene. eccetera. Cosa vuoi di più, Lucano? Ia, dici che l'elemento del suo esce, mi prendi tatti e poi vado, faccio 2 minuti di bianco che devo uscire fuori a sistemare i ragazzi. Aspetta, lascia la portante bianca. Se senti rumore sono la ventola del 450 che si è azionata. Infatti. No, va bene, ti ripeto, questa è una lavorazione un pochino più grossa, più gracchiante, dai. Però si assomiglia molto all'altra, va bene, va bene. E l'unica cosa che ho sentito adesso, ho alzato un pochino il volume, la ventola, ma è normale. Sì, c'è la ventola delle. Lo sai come me che c'ha. La ventola dietro, poi si aziona e fa. Non è rumorosa, però deve essere talmente alta amplificazione che la pesca di brutto. Beh, faccio 2 minuti di bianco e riprendo subito, nel frattempo rimetto 60. Andabex, siamo qua. Gava, mi sono caricato i portatili per domani, tutti e tre, così domani sera vi faccio questa passeggiata di 2 chilometri. Sì, ci vuole Antonè, pure il movimento ci vuole, così almeno cammina con la... col coso, lo ti porti la sigla, la cos'è? Ah, già, forse vado, ci scendo con la macchinetta, ci scendo, la fuoco bite, capito? C'è il sedile, metto l'antenna dietro, metto, e la parecchio avanti. Ho capito. Va bene. Così per bigliare mamma come bigliano i vicini urbani, cazzo, dici dove sta andando lì? Già c'è Giampiero con giusti che mi fa ridere, cazzo, quando esce di casa adesso guarda direttamente al bar, posso andare con la carrozzina normale, ma con la carrozzina motore, cazzo. 4 ruote. E scende giù direttamente dallo spinshed, qualche giorno quello capace che va in tal negozio e gli ricala come sa via 5-6 lattine che e gliele sto pagando, poi me ne vado. E poi si mette la manetta, fuggendo. Allora, me l'ho preso più che altro per fare la spesa, quella cosa lì. Non l'ho presa per altro. L'ho pagato 150 euro. Cazzo, costa più di batteria che il coso stesso. Cazzo, di batteria da 80 ampere, pesa da 30 kg una. Ne monta due. Quando ce l'abbiamo caricata in macchina di Giovanna, c'è stata giusta nel cofano dell'Apollo. Cazzo, ho detto quanto pesa questa cosa. Poi mi sono ricordato, cazzo, ci sono le batterie dentro. Allora ho preso, meno male c'avevo le chiavi, ho smontato il computer che ho staccato le batterie, per essere la più leggera. Ce l'abbiamo infilata io e Giovanna, giusto, abbiamo chiuso il cofano. E dopo lì che l'ho scesa e l'ho parcheggiata davanti al portone di casa, poi dopo pranzo ho preso e l'ho portata nel garage di Giovanna. Non è che mi fidavo molto a lasciarla fuori, no? Se no acchiappo due con la crisi che c'è in questo periodo che si portano via gli spoteri delle macchine, cazzo. Infatti, così un casino, bisogna stare un po' attenti su queste cose. E vabbè, che poi non lo so, credo che Cori abbia anche un localizzatore GPS. Non lo so la verità, non ci ho fatto caso. Non so neanche se c'è l'allarme, quindi adesso quando l'ho ripiato c'erano le batterie scariche, capito? Adesso quando ti carico quelle di Giampiero, quelle che c'avevo prima, almeno 24 volte me le dava, non molte ampere, così la controllo bene. se c'è l'allarme, se, oppure se, se non c'è niente, non lo so. E poi fra 2 o 3 mesi mi prendo le batterie, mi metto soldi da parte, 150 euro di mese, cazzo, costano 459 euro quelle, tutte e 2 batterie. Nulla, adesso immaginati tu se ti dovessi comprare una macchina elettrica, cazzo, quanto paghi le batterie, quelle batterie al litio? Cioè, fai prima a venderti la macchina, cazzo. Lo so, io ne ho 4 a gel, non sono al 100%, saranno 70-80%, però ce li ho così, praticamente collegati a un pannello solare, giusto per... le ho prese, ne ho pagate 30 euro l'una, perché le stavo smaltendo, capito? Però siccome erano ancora buone, me le ho prese. Sono rientrato. E mi ha capito, hai fatto bene a prendere. Quella gli ha costato di meno, ma quella che ho io da 80 ampere, c'hanno il jet dentro, capito? Pesano che come un coso, costano un bel come batterie, non so se vadino bene per i pannelli solari quelle batterie lì, la verità, Sì, vanno bene per quello. Sì, Gabi, sei entrato e cambiato il microfono. Ehi. Antone, ti volevo chiedere una cosa, ma tu non hai di fuori sul tetto, vero? Io sul tetto ci posso andare come e quando voglio, grazie a Dio, adesso. Prima era un casino, perché c'era il capocondomino che era sempre alla finestra, non sai che salivo sopra il tetto, oppure c'erano gli amici su che glielo diceva. Adesso invece quello non c'è più, c'è un altro di capocondomino e questo mi fa fare i lavori che voglio. Allora, posso tranquillamente salirci, fare antenne, infatti ce ne sono 2 piazzate. No, sto dicendo, di poli non ne hai tu piazzati sul tetto? No, non ne ho, ce l'avevo di polo, era 10 metri e 20 per parte, era per i 40 metri, poi passava a 20, 30 centimetri alla finestra, lì non ha pigliato il gatto, me l'ha tagliato con la forbice, hai capito, fatta scema, allora non ho piazzato più, se no già non cerca di piazzarmi di polo per i 40 metri, ma non me ne fotte più niente, hai capito. Ma quindi non lo usi, cioè, qua, non lo usi il Kim, ti puoi fare ascolto, lo usi con la mantova, vabbè, quindi di poli zero. Sì, con la mantova ci vai a coso, perfetto, non è quello il problema, già risuona la mantova in 40 metri, anche in 45. E meno 80, no, però. Vabbè, per questo se avevo avuto la Firenze 2, vedi, la Firenze 2 era l'unica cosa che andavo in VHF in 27 e in 40-45. Tu lo sai, io guarda, te lo posso dire, ti faccio un video, lo mando a Tino e poi lui te lo manda. Adesso io vado in 80 metri, no? Con la Grazioli. E ti faccio vedere la differenza tra il dipolo e la Grazioli. È assurda questa antenna. Risuona anche in 80 metri di trasmissione. E ti posso dire una cosa, che la radio la corda. Quando io vado a fare l'attitude, la corda. Ah, meglio così. Se la Grazioli va bene, la signora antenna, non le posso dire niente. Capito? Infatti vi attino quando è venuto qui l'altro giorno, la propagazione dalla Russia, ho fatto solo una chiamata, qui c'era attino davanti, questo arrivava a 9.40 qua, gli ho risposto con chiamato, con 50 watt, e mi ha sentito benissimo, mi ha sentito, ma pure risposto, però lo sai, io russo non è che ne parlo, però già mi ha risposto, cazzo, arrivava, senz'altro arrivavo forte, perché io ho la zona buona per la Russia di qua, è una cosa allucinante, i russi mi arrivano a fondo scala a me qua. E tu hai la zona buona per tutto, Antone, di lì, cazzo, se non sei in zona buona, tu chi è in zona buona? Anche io qua, anche a me qua arrivano, io addirittura qua, la sera... volte dopo le 4, non sono libero, facciamo una chiacchierata con Franco e ce ne andiamo in FM con 50 watt, con 50 watt ci rispondono i tedeschi tranquillamente, ma proprio tranquillo in FM. Ecco, non ci sono dialoghi con quei tedeschi che non si capiscono. E poi quando ti dicono Italia, vuol dire che mi stai arrivando forte. In FM vabbè, viaggi, in FM viaggi. Caspita, però io, guarda, con questa antenna qua, io di questa antenna non è che sono soddisfatto, no? di più, è un mostro anche in ricezione, bella, non mi posso lamentare, la compri altre 100 volte. Ma con la colazione? Sì. Poi vabbè, ho i dipoli, io penso che ho un dipolo, mi ho fatto il dipolo 40-80, poi ho un dipolo, un altro dipolo per i 40 metri caricato, fatto diversamente, e poi ho il dipolo per gli 80 metri solo, sono 20-22 metri per braccio. La mattina a volte quando esco un po' tardi li accendo alle 6:30, in 3.669, guarda, mi arrivano 9.20, 9.30, proprio, ma poi è zitto, perché un conto che ti arrivano 9.20, 9.30 e 9 di QRM, proprio quando loro, guarda, fanno da 5 a 9.10, 9.20, cioè assurdo. I dipoli, se li fai bene, funzionano. Molto, molto bene. Sì, io ne ho due. Uno forse avrà più di 30 anni. Quello che ha fatto Antonello va per i 45 metri, che è piazzato, però adesso è in disuso perché ho messo quello da 20, 40, 80. E quello è quello che funziona più di tutti adesso. E va bene, va bene. E poi ne ho fatto un altro insieme a un amico stesso, però solo 40-80, e quello ce l'ho conservato, quando sarà lo dovrò piazzare anche quello. Sì. Certo, quando vi smetto quei cavi già a bassa impedenza, perché i dipoli che ci ho fatti io non sono fatti col filo elettrico, sono fatti già con i cavi a bassa impedenza. E le trappole fatte col filo giusto, per esempio ne ho uno per i 40-80, ha le trappole fatte col filo da 0,5 da 5 mm, ma scusa, 5 mm, da mezzo millimetro, da 0,5, vabbè, comunque, col filo da 0,5, non da 1, da 0,5, 65 spire gli ho fatto, cambiato filo, messo il filo da 1, filo quello rosso e nero, tolto il rosso, fatte le 65 spire, non risuona come fatto col cavo da 0,5, cioè è assurdo. Adesso, guarda, è strano, io ho piazzato un'antenna insieme a cosa, che cacchio si chiama, è venuto qua, Timo, un americano, l'ho piazzato nel terreno di Walter, ma non so quanti metri siano, praticamente tu immaginati una L, forse sono 80 metri per parte, no, 80 metri da una parte e magari 60 dall'altra, se non mi ricordo, o qualcosa in più anche, fatto col cavo della televisione, cavo TV. Sì, cavo 75 ohm. Sì, poi perché magari poi gli ha dato la graduazione e esce da 50. sì, va anche quello, va anche quello.